La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. E in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Diceva di essere amica mia. Sì, amica. Quella puttana mi ha portato via il marito. Ha lasciato me e nostro figlio che piange tutti i giorni. Lui ha 9 anni ma capisce perfettamente cosa mi ha fatto suo padre e che razza di donna ha preferito a noi. Ma non la passa, liscia. A parte i tribunali e gli alimenti, io voglio una vendetta esemplare. Passo le giornate a studiare come fare, ma non mi sembra mai abbastanza. Mi è piaciuta molto la moglie di quell'uomo politico americano, ricchissima, che è morta a 55 anni e non gli ha lasciato un soldo perché sapeva che aveva l'amante e ci aveva addirittura fatto un figlio. Ma io non ho i mezzi per una punizione del genere e poi vorrei qualcosa che gli facesse più male, che lo distruggesse per il resto dei suoi giorni, facendogli capire che nullità è lui. Deborah. Con ordine. Già rispondendo a un'altra ascoltatrice, avevo raccomandato di non usare la frase con cui ho aperto la lettera. Quella puttana mi ha rubato il marito. Avevo già detto di non dirlo, perché un marito non è un ombrello. Se lo guardi bene da vicino a tutto, le sue manine, i suoi piedini, il suo sessino, il suo libero arbitrino. E nel furto ha avuto sicuramente una parte attiva. Ho letto anch'io questa storia della moglie che morendo ha diseredato il marito perché era infedele ed era la moglie di John Edwards, morta a 55 anni di tumore. John Edwards, questo uomo politico americano importante perché era rivale di Obama come candidato alla presidenza degli Stati Uniti, però all'epoca nessuno l'ha notato. Nel suo paese sì, ma non mi risulta che in Italia John Edwards sia stato famoso in qualche modo. In un istante è diventato famoso in tutto il mondo perché ha messo le corna alla moglie, la quale appunto morendo lo ha diseredato, ma non lo ha mica rovinato, perché questo John Edwards ha un patrimonio personale valutato 30 milioni di dollari e quindi credo che possa mantenere senza sacrificio la donna che adesso sposerà e il figlio che hanno avuto insieme. Quanto allo studiare una vendetta, io non credo che tu debba cercarla tanto, perché la stai già compiendo e nel modo peggiore. Ti stai vendicando attraverso tuo figlio. Tuo figlio lo hai già arruolato come soldato contro suo padre. Glielo stai mettendo contro. Invece di cercare di compensare il suo dolore, fai leva su questo dolore, fai di tutto per alimentarlo, per averlo dalla tua parte. Io credo che tutte le vendette siano lecite, meno questa. Farla pagare ai figli, grandi o piccoli che siano. Cioè trasformarli in un esercito d'armare contro il traditore. Ma come, scusa, io non capisco. Fino al giorno prima era il tuo bambino. Gli volevi bene e adesso ne fai uno strumento. La vendetta sui figli è perché siamo così infantili che non sappiamo neanche gestire i nostri contrasti fra grandi e la facciamo pagare ai più deboli. Tuo padre qua, tua madre là, siamo tutte pronte a trasformarci in Medea. Medea che nei tempi moderni è Mia Farrow. Il suo è un caso esemplare, clamoroso, inarrivabile. Ricordiamo per i più giovani che non studiano chi è Medea. Medea è una figlia di re che contro suo padre aiuta Giasone, l'argonauta, a rubare il vello d'oro. Lui la porta via con sé e la sposa. Fuggono insieme, la conduce nel suo paese e fanno 2 figli. Ma poi Giasone, sempre più ambizioso, si stufa della moglie e per motivi anche di potere si sposa la giovane Creusa, figlia di re anche lei. Medea si vendica. Dopo aver fatto morire la promessa sposa e anche il padre di lei, non paga, uccide i figli avuti da Giasone. E non sconterà i suoi delitti. Volerà via su un carro alato, contrarrà nuove splendide nozze e sarà regina. Anche nel mito i ricchi potenti fanno quello che gli pare. Allora, torniamo appunto al caso di Mia Farrow. Mia Farrow, all'epoca in cui accadono i fatti, è la moglie di Woody Allen. Lei ha 50 anni e lui 60. Quando lui le tradisce con questa ragazza cinese con Son Yi, che ne ha 20. E Mia Farrow cosa fa? Per non ammettere il banale fatto di essere lasciata per una più giovane, abbassa l'età e lo denuncia per molestie alla loro figlia di 7 anni. E questa accusa nasconde una vendetta obliqua, una vendetta alla mente criminale, perché la bambina diventa lo strumento per punire il marito di questo torto, appunto, molto più banale. Quando ha saputo della sua storia con la ragazza ventenne, Mia Farrow ha valutato freddamente la reazione del pubblico. A un maschio è permesso tutto, e figuriamoci a Woody Allen. Calcola che nessuno si scandalizzerà dell'amore per una ragazza di 20 anni e che nessuno l'avrebbe troppo compatita. E lei invece voleva rovinarlo. Così scavalca la vera offesa, l'offesa che le brucia, di donna non più giovane tradita con una giovane, e lo accusa di pedofilia, ovvero agita il fantasma d'America, il colpo infallibile. Perché è vero che esiste la piaga della pedofilia, ma esiste anche la piaga di servirsi di questa accusa per polverizzare un nemico o un rivale. È un colpo infallibile. Basta la parola. Ombre così non si tolgono. C'è sempre qualcuno che ci crederà. Allora, immaginiamo questa madre che sbatte la bambina di 7 anni davanti alla telecamera e la interroga morbosamente. Cosa ti ha fatto, papà? Ecco, questo è scempio dell'innocenza. Questa è corruzione. Questo è un sacrilegio. Le molestie è lei che le ha fatte. Io credo che se avessero interrogato me a 7 anni, telecamera o non telecamera, cosa ti ha fatto papà? Ma io l'avrei mandato in galera, povero papà. E non era certo un uomo morboso, era un delizioso padre affettuoso. E la domenica mattina io avevo il permesso di andare nel suo letto per giocare. E confidenze, scherzi, che detti in tribunale sarebbero apparsi altro. Mi chiedo cosa avrebbe pensato un giudice del mio gioco preferito, che era fargli le treccine coi peli del petto. Visti con malizia, i gesti dell'intimità sono tutti molestie. E anche Mia Farrow, come Medea, non sarà punita di questo scempio. Con una sola mossa ha massacrato una bambina e un uomo. Da adultero, il marito viene promosso mostro e una storia di corna viene elevata a crimine del secolo. Mia Farrow è la Medea del nostro tempo. Per colpire il marito disposta a sacrificare la figlia, a trascinarla in tribunale, a profanarla. Attente, qualsiasi cosa, ma ricordatevi che dovete vendicarvi di un uomo e non dei vostri figli. La guardiana del faro. Messaggio nella bottiglia in arrivo per la guardiana del faro. Cara Barbara, ho 26 anni, sono molto timida. Ho avuto rapporti difficili con gli altri fin dai tempi della scuola e con gli uomini poi sono un disastro. Non mi sento mai all'altezza. Adesso mi piace un ragazzo che mi invita a uscire. Io gli ho detto di aspettare un po' perché non sono pronta. La verità è che mi voglio iscrivere a un corso di autostima, così saprò come conquistarlo e non se la darà a gambe come tutti gli altri. Nunzia. Nunzia, io non mi stancherò mai di inveire contro l'autostima. Una delle più grandi disgrazie del tempo nostro è di aspettarci sempre che i nostri problemi siano risolti dal di fuori. Un corso è tutto a posto, ma guarda che sono balle. Ma se una ragazza o un manichino? Ma secondo me dovresti provare a volergli bene, semplicemente bene. Guarda che i corsi di autostima sono una fregatura umiliantissima e molto stupida. Sono attentati alla coscienza e alla personalità. Penso di ripetermi, non me ne importa nulla, però mi importa che ti arrivi questo. Nei corsi di autostima ti insegnano che hai sempre ragione. E guarda che ce n'è abbastanza in giro di gente che pensa di aver sempre ragione. Pure quando fai schifo. La stima bisogna meritarsela, momento per momento, fino all'ultimo. Si fa sempre in tempo, anche nell'ultimo respiro, a diventare ignobili. I corsi di autostima sono corsi di bullismo. Come ce ne fosse poco. Ti dico una cosa, Nunzia, con l'arroganza che c'è in giro, servirebbero dei corsi di umiltà. Che non vuol dire obbedienza, anzi. Di donne tradite ne ho conosciute 1 milione. Sono molto vari i modi di reagire a un tradimento. Il più originale, la più originale vendetta che mi sia stato dato di vedere è stata quella di Anna. Chiamerò Anna questa mia amica. Anna era sposata con Luca. Era un matrimonio affettuosissimo. Erano innamorati, ma proprio in maniera puerile. Avevano questi gesti d'affetto, anche un po' esagerati, e in pubblico, anche un po' fastidiosi, devo dire la verità, perché erano un po' leziosi. Poi, lui compie 60 anni. Anche lei più o meno aveva la stessa età. un onoratissimo professore universitario, di colpo a 60 anni impazzisce. C'è uno scandalo con una giovane, con un'allieva, e lui lascia la moglie e si mette con l'allieva. Però non è che perde la testa per questa ragazza e si mette con lei, ma che, non contento, metteva le corna pure a lei. Aveva un amante dopo l'altra. Era diventato un satiro e zoccolava dietro a tutte le ragazze dell'università. Anna, lì per lì, pensò al suicidio. Poi attraversò l'anoressia. Però ne uscì, perché era una forma di suicidio anche quello. La caratteristica principale di Anna era che aveva veramente una grande fede religiosa, non finta, non immaginaria. E fu proprio dalla religione che le venne l'idea di fare il grande gesto, grazie al quale adesso lei è felice ed emana una luce di follia fiduciosa, la luce che credo che debba illuminare il kamikaze. Lei, Anna, trova un modo per neutralizzare tutte quelle corna, trasformando la sconfitta in vittoria e prendendosi una vendetta veramente molto originale. Anna ha fatto un voto di castità a favore del marito, cioè ha offerto all'Altissimo la rinuncia a qualsiasi piacere sessuale, vita natural durante, in cambio della salvezza dell'anima del peccatore. Cioè ha offerto il suo sacrificio in riscatto delle colpe di lui, presenti e future. Adesso lo tiene saldamente in pugno. Se lo è assicurato per l'eternità. Mi ha detto un giorno, conto di riacciuffarlo in paradiso. E da lì non si scappa. Ah, qui al faro non sono poi sola. Perché da qualche tempo è venuto un naufrago, è venuto Paolo Villaggio ed è rimasto lì addormentato. Sì, ogni tanto si sveglia e io approfitto, lo interrogo come una sibilla, lo interrogo come una inesauribile e limpidissima fonte di racconto. Paolo! Senti, ma i nostri vecchi amici... sono morti. Monicelli è morto in maniera straordinaria. Straordinaria. 95 anni. Ho letto il tuo commento. Monicelli ha 95 anni... gli fanno una diagnosi, tumore alla prostata, che in genere non perdona. Va dal urologo, sì, un urologo, un luminare, e lui dice, ma non si preoccupi, sa. No, un momento, fa lui. Parlo io, ha detto Monicelli. Che speranze ho. Questo ha detto, in genere dicono vedrà che poi, ha detto, no, vede, ha detto questo, lei ha uno svantaggio, che ha 95 anni, basta così, ha detto Monicelli. Gli ha dato la mano, è andato nella sua stanza e sono stato vissuto. Hai capito? Ha avuto un coraggio che solo Monicelli poteva avere. Sì, straordinario. Straordinario. Perché... io so che non avrò mai quel coraggio. Ma no, io mi sarei fatta fare un'iniezione. Avrei cercato... No, va lì, eutanasia, sì, veloce. Sì, questo è il fatto che mi ha colpito. Sì, non poteva, passatemi... un veleno potete, un cianuro, no? Un eroismo da kamikaze, proprio. In maniera straordinaria. Gassman è stato un amico unico, affascinante, molto carino, un grande senso dell'amicizia, leale. Però quando il successo è mancato, si è rifugiato nella depressione. Tognazzi, che era più intelligente di tutti, quando il successo è mancato, mi diceva, vabbè, tanto chi se ne frega, io al massimo posso vivere... dopo quegli alberi, eravamo nel suo giardino, vedi quegli alberi lì, più belli? Eh sì, ma io tanto non li vedrò crescere. Cioè anche lui aveva accettato però lucidamente che la parabola, Fellini fingeva di non essere depresso e invece lo era, perché dopo La voce della luna lui ha cercato, abbiamo fatto insieme gli spot della Banca di Roma. E poi lui ha cercato di montare su con me il famoso Mastorna, che non ha mai... Il mago Rol di Torino diceva, guarda che se fai Mastorna muori. Sì, era come la messa del Requiem per Mozart. Sì. Lui in quel momento fa fare, come si chiama quel cartonista erotico di Verona, dai? Non Altan. Ah, Manara. Manara. Ha detto, Manara carino, non lo chiama per nome, non mi ricordo il nome, Alzheimer. E dice, mi fai tu Mastorna? E io sono Mastorna. Mi fa, hai visto, perché è uscito sul grifo, hai visto Paolino, mi ha detto, abbiamo dribblato Mastorna, l'abbiamo fatto lo stesso. Dopo due mesi è morto, strozzato da una mozzarella, pensa una cosa, sai quelle mozzarella? Ah, non lo sapevo. Sì, ictus, però nell'ictus si perde forse, io credo di avere un ictus in corso. Quindi anche mozzarella, questo, perché si perde sensibilità? Eh sì. Capacità di inghiottire? Beh, non lo so. A parte questo, dico, tutta gente straordinaria, però non è che mi manchi, ecco. Mi mancano quei tempi, perché anch'io ero, io un bel momento, ignobilmente, hai ragione Giovanna, un bel momento io ho abbandonato, da quando ho avuto molto successo poi. Beh, io ho frequentato solo gente di grande successo, Ferreri, Bertolucci Bernardo, l'altro Bertolucci che è venuto. Perché? Perché tutto considerato mi sentivo rallegrato, gratificato da essere con amici di quel tipo. I vecchi compagni di scuola invece, vabbè, è così la cosa. Due parole su Ferreri e su Gian Maria Volonté. Dunque, Volonté ha avuto una svolta, un tumore. Da quel momento ci siamo frequentati, c'era anche tu, andavamo insieme in barca, eccetera. E a questo punto si era liberato dello spettro del settarismo. Lui era un cazzato, era un fascista di fondo, di sinistra, ma lui è diventato divertente. Abbiamo fatto delle pantomime, ci hanno divertiti moltissimo, cioè era diventato frequentabilissimo. Tormentatissimo ma spiritosissimo. Sì, esatto, è quello che... Ironia, prima zero ironia, addirittura. Come attore straordinario. Straordinario, unico, purtroppo di lingua italiana, perché altrimenti quelli se li faceva fuori tutti, parlo di De Niro, no? Hoffman no, e neppure Marlon Brando, però era un attore unico, incredibile. Marco Ferreri era meraviglioso, era sgradevole, aggressivo, brutto, un cesso, era proprio, la sua bruttezza gli dava un fastidio, perché sua moglie, poi, che era un po' sciroccata, scema, devo francamente, gli diceva: ma Marco, tu non capisci che tu non piaci alle donne perché fai schifo. E lui dice: ti ringrazio. Gli diceva in pubblico. Una sera siamo stati insieme in Corsica, lui abitava vicino a casa mia a Bonifacio. Una sera ero a casa sua e accendo la televisione, lui in cucina che spignettava, adesso te faccio queste cose qua, che hai capito. Io accendo la televisione, Rai 1, Bertolucci che alza 9, Oscar, tac, ho spento. Lui non mi ha detto perché che stai a spegnere, niente. Passo Rai 2, tutti i 9 Oscar e Bertolucci che tac, entendez, francese. Bertolucci. I 9 Oscar. Passo veramente su Sky, quei temi, Bertolucci, ho spento. Lui non mi ha detto ma che volevamo vedere, niente. Passano infruttuosamente sette giorni. Si usciva tutte le sere fingendo di andare a pescare. È che avevamo, si stava meglio da soli, senza delle mogli, alle volte un po' scadenti. E siamo nel mio gozzo, sapete, con le barche. Una piatta, una meraviglia, sotto casa mia, sotto la scogliera di Bonifacio. In questo silenzio assoluto lui un momento fa: a me di quella non me ne può fregare di meno. Io non gli ho detto ma chi è, scusa. Sette giorni ruminando la cosa. Io ho detto, non ho detto neppure cosa hai detto, perché era assolutamente, beh, l'invidia è una cosa così naturale, è un sentimento nobile, è il sentimento più naturale. L'amore, le lune, quelle stronzate lì sono inventate solo in funzione del polpo morto per sodomizzare queste donne che, insomma, si sono liberate di che cosa? Di niente, guarda ancora. La guardiana del faro. E in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, ho lasciato l'università senza laurearmi perché sono rimasta incinta del primo figlio e ci siamo sposati. Ho rimandato la laurea e qualsiasi velleità di andare a lavorare. Le nostre famiglie abitano a 500 chilometri, quindi niente nonni né parenti. Poco dopo è nata la bambina e addio progetti. Faccio la casalinga a tempo pieno. Sai, mi diverto anche, loro sono la mia vita, ma non c'è un momento di requie e temo le vacanze. Quando stiamo in città almeno vanno a scuola. Lui cerca di darmi una mano, ma quando torna è tramortito dalla stanchezza. Non è la fatica che mi pesa. La laurea in sé non è importante e oggi non serve nemmeno a trovare un lavoro. Ma sono appassionata di storia. Sto preparando una tesi ormai da 3 anni e mi manca la concentrazione, un tempo che sia soltanto mio. Che deve fare una casalinga per essere meno disperata? Livia. Per una volta io credo di poterti dare un consiglio, veramente un suggerimento, a te e a tutte le casalinghe che rischiano di essere disperate per la natura stessa e l'impegno di questo lavoro. L'unica cura per essere meno disperate, dato che quello che ci manca poi, e in famiglia comunque manca sempre, un posto dove stare, un momento nostro, un momento veramente nostro. Il suggerimento è, casalinghe, prendetevi un mese d'aria, una volta all'anno, da sole. Oh, un mese che non è realistico, ma magari anche divisibile in 4 settimane staccate. Ma senza dire dove siete. Casalinghe, datevi alla macchia per qualche piccolo periodo. Prendetevi un tempo inviolabile in cui nessuno si aspetti niente da voi. Una specie di lungo 8 marzo. Avete presente quella farsa quando la sera dell'8 marzo magari i ragazzini, il marito, per una volta fanno loro la cena, come quando i nobili o i prelati lavano una volta all'anno i piedi ai carcerati? Ecco, no. Allora dice, ma come, sto via una settimana, come faranno in casa? Beh, troveranno il modo. Finalmente almeno capiranno che lavoro fai. Perché la frase tipica è, che fa tua madre? Niente, la casalinga, cioè voglio dire impiegata 24 ore al giorno. Una cosa importante è che non occorre essere ricche. Certo, il denaro aiuta, ma se non siete ricche, non occorrono i soldi. Fatevi ospitare da un'amica, magari 2 strade più là, purché non sappiano dove scovarvi, purché voi abbiate quell'impunità meravigliosa che io provo quando vado in un albergo e chiudo la porta. Stacco il telefono, nessuno ha più niente a pretendere da te. E questo serve per non scoppiare, per non avvelenare un giorno i vostri familiari coi passatelli, per amarli meglio, perché in sé, come abbiamo detto altre volte, essere artefici di pulizia è un compito sacerdotale, ma inevitabilmente si finisce guardiane di mutande e calzini. Bisogna sfuggire al vortice familiare, a questo labirinto di schiavitù per cui appartieni agli altri. Tutti gli anni, tutti i giorni, anche la notte, è troppo. Non si può avere rapporto coi familiari solo attraverso i loro rifiuti. Alla lunga ti contamina e quando tornerai da queste tue viaggi misteriosi ti vorranno più bene e ti troveranno anche molto più affascinante. Perché lo sarai? Perché dopo che ti sei allontanata sai quanto ti viene da ridere. Все обиды до времени прячем. Ничего, что удачи пока не видать, зря не плачем. La lettera di Livia mi riporta al contrasto tra il bisogno di concentrazione e la famiglia, oppure l'amore. Quello che manca, direbbe Virginia Woolf, è sempre una stanza tutta per sé, un posto dove si possa liberamente pensare. E perché accada, occorre non sentirsi pensati. Se si vive con un'altra persona, anche amatissima, mentre si sta creando o studiando, ecco, la presenza dell'altro obbliga a rendere conto di sé, del proprio umore, dei propri gesti, e il filo del pensiero si spezza, non si compie. E c'è un romanzo di D'Annunzio che è tra i miei preferiti, Il trionfo della morte, che sviluppa con grande arte questo tema, creazione, amore, appunto, contrasto tra creazione e amore, amore presente. E io mi identifico quando leggo Il trionfo della morte, come qualsiasi artista che coltivi insieme alla sua vocazione anche la passione per gli altri esseri. E il libro Trionfo della morte nasce da un episodio vero, quando D'Annunzio commette un'ingenuità molto pericolosa. Va in vacanza con Barbarella, la sua amante di allora, loro due soli, nell'eremo dove invece lui e il pittore Michetti lavoravano di solito senza mai disturbarsi, completamente lontani dal mondo. Ora, immaginiamoci introdurre una donna, un amante, che non ha niente da fare se non l'amore, in quel tempio della creazione e del silenzio. Un incubo. Da quasi subito. Prima c'è un grande trasporto dei sensi e poi lui si rende conto che non riesce a scrivere. E si accorge che lei gli dà un fastidio grandissimo, un fastidio che lui non riesce a nascondere, si sforza, quindi al disturbo si unisce anche il rancore perché deve nascondere questo suo disagio. Lui ama questa donna, che nel libro si chiama Ippolita, la desidera, ma si sente derubato della sua solitudine. Si sente invaso, l'ha invitata lui, ma poi non la sopporta. lottano, come sempre in D'Annunzio, il monaco e l'usurioso. E questa dicotomia viene fuori molto fortemente vicino a Barbarella. Anzi no, chiamiamolo Ippolita se no ci confondiamo. E insieme a Ippolita il monaco prevale. Presto lui ha l'illuminazione. Si rende conto di come sarebbe per lui l'amante ideale. Morta! Io penso che morta ella raggiungerà la suprema espressione della sua bellezza. Morta. E se ella morisse, ella diventerebbe materia di pensiero, una pura idealità. Io lo amerei oltre la vita, senza gelosia, ti credo, con un dolore pacato e uguale. Preso dall'immaginazione, si scatena a immaginare Ippolita morta e nell'immaginazione la copre di fiori. E anche nella realtà trova l'amante che dorme e la copre di fiori, come se fosse morta. E così, inghirlandata, infiorata, ella gli era parsa un corpo esanime, un cadavere. Invece, per disgrazia, si sveglia, perché è viva. E sono appena arrivati al loro rifugio d'amore. Questo è solo l'inizio. C'è qualcosa di comico, non credo del tutto involontario, nel crescendo della visione di Giorgio, il protagonista, che pensa Ippolita morta, che la vuole morta, e con questo rancore l'accusa in cuor suo del fatto che non sta scrivendo. C'è qualcosa di comico in questa atrocità, c'è qualcosa che mi ricorda addirittura il magnifico film di Chaplin, Monsieur Verdù, che racconta appunto questo serial killer di quasi 100 anni fa, che era l'Andrew. Finché il disegno si precisa, Giorgio capisce che per non sprofondare nella grave materia, come dice lui, che la donna rappresenta, c'è una sola soluzione. Visto che lei non muore, morire. E allora sposta la fantasia di morte su di sé. Desidera solo annullarsi per liberarsi da lei, che rappresenta la carne, perché la carne per i maschi, come anche per Tolstoi, è sempre colpa della femmina. Questa carne che, come dice lui, gli vieta l'accesso all'infinito, e la colpevole è lei, la tentatrice. E poi, fuori dal letto, una gran noia. Allora è deciso. Lui si ucciderà e quella nequizia avrà fine. Sta per immaginare dei piani di suicidio e poi si ribella e dice no. E gli secca morire. Si sente truffato. La guarda con un odio esplosivo e segreto e pensa è comodo. Io muoio e lei continuerà a vivere, magari con un altro. La guarda e pensa. Dovrò io morire solo? Si adunavano in lei le virtù sovrane delle donne destinate a dominare il mondo col flagello della loro bellezza impura. La nostalgia lo soffoca. Rimpiange il suo amico Michetti, il pittore. Come si stava bene con Michetti. Fra maschi, raccolti lì a lavorare, fra maschi di sicura fede eterosessuale, però fatti l'uno per l'altro. Così uniti, così fratelli, d'accordo sempre nel risparmiare anche un secondo, mangiavano in piedi come soldati, come frati, come cavalli, come artisti, come uomini senza donne. L'amore ideale è quello che non fa perdere tempo, quindi con un uomo. Все наладит, переждем, переждем, на кого же надеяться, кроме... Giorgio e Ippolita, nella noia, copulano, copulano, copulano. Lui non la regge più. Lei che si nutre del suo vigore e lui li secca, lo divora, lo prosciuga e lui, come il guardiacaccia di Lady Chatterley, conteggia torvamente quanto della sua forza la femmina vorace si sia pappata alla faccia sua. Netto è ormai il disegno del protagonista. O muore lei o muore lui, che comunque un'ottima ragione per suicidarsi ce l'avrebbe. Morire, non rivederla più. E poi anche la prova che Ippolita merita la morte. Una sera questa vampira, beh effettivamente fa una cosa abbastanza crudele, si mette nei capelli una spilla e la urna di una farfalla trafitta che batte le ali agonizzando. Allora Giorgio si rassicura, dice beh, una donna così crudele con un insetto può soltanto essere trucidata. Insomma, D'Annunzio sogna che venga Michetti come un liberatore improvviso, accarezza l'idea di tagliarle le vene e come Monsieur Verdù elabora un piano per affogarla. Ci sta riuscendo. La fa cadere dalla barca, esattamente come Monsieur Verdù. Eccola che lei si dibatte, affonda, gorgoglia, ancora pochi istanti e sarà libero. All'ultimo, capricciosamente, la salva. Ippolita scoppia a piangere e lui la trova spregevole, brutta, vigliacca. Si pente subitissimo per averla risparmiata e prorompe. Ah, la solitudine, la libertà, l'amore senza vicinanza per una donna morta o inaccessibile, finché non ne può proprio più. Riesce ad attirarla con l'inganno sull'orlo del precipizio, la acchiappa, cerca di buttarsi di sotto con lei, perché poi alla fine è ammazzarsi tutti e due nella scelta. Però non è facile trascinarla con sé e farla fuori. Lottano, lei è forte, irrobustita dall'aria di mare e da tutto quel seme che si è cuccata. Gli dà uno spintone, lo getta a terra e gli scappa, ma lui è deciso. Con un guizzo la riagguanta, la sovrasta, le si avvinghia, la condannata a morte deve consumare l'esecuzione. E con la forza dell'odio riesce a trascinarla del vuoto e finalmente precipitano giù, sfracellandosi nell'abisso, insieme. Oh, è fatta. Un grande movente della scrittura è la vendetta. Sclavisniki, sclavisniki, da pod vietrom carioжиться крыша. Ну, ковын из карманов свои кулаки, мастер Гриша. Мастер Гриша. Мастер Гриша, мастер Гриша. La guardiana del faro. Qui capitaneria di porto. Come richiesto, la Maria delle Acciughe è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Maria, come va questa infinita storia d'amore che tessi nel mondo, questo gioco? Chi è il protagonista dell'ultima storia che mi vuoi raccontare? Il protagonista dell'ultima storia è uno che assomiglia a Dantes. Dantes, Dantes quello del Conto di Monte Cristo? No, è Dantes l'altro. Dantes di Pushkin? Sì, quello innamorato della moglie di Pushkin che lo uccide a duello, e nel libro di Serena Vitale il bottone di Pushkin è descritto in un modo meraviglioso, come è proprio lui, come Piero. Piero, un uomo affascinante, scatenato, che arriva alle feste elegantissimo ma spettinato, balla tutta la notte con tutte, e al mattino i diari delle signore si riempiono di cose scritte su di lui e sono piene appunto di commenti su di lui. Dantes è sempre l'ultimo ad andare via dalle feste. Se ci fosse stato Facebook, forse sarebbe diventato una star. Una star, sì, una star. Insomma, questo più dell'uomo delle acciughe? Non lo so. L'uomo delle acciughe è intoccabile. E invece Piero? E invece Piero non lo conoscevo bene. L'avevo visto, perché lui fa il sommelier. L'avevo visto una sera in un ristorante e lui mi ha portato un vino. Dato io napoletano, mi ha portato un vino e mi ha detto, ho portato questo vino, era a tavola con delle altre persone, guardandomi negli occhi mi ha detto, ho portato questo vino perché secondo me questo vino, Maria, è come te, perché questo vino è femmina. E allora, come mi è piaciuto. E quindi lui è, insomma, è napoletano e sembra un lapillo scaturito dal vulcano. A un certo punto ha deciso di sposarsi con un ungherese. Un ungherese mi ha mandato un sms invitandomi, pur non conoscendolo bene. Io sono arrivata un po' tardi, sono arrivata alle 9, ma non tanto tardi, la festa era appena cominciata. Però insomma non sono andata in chiesa. Quando sono arrivata, il locale era già tutto distrutto, c'era bagnato per terra, gli ospiti se ne erano quasi tutti già andati, due erano finiti all'ospedale, uno perché si era tagliato, l'altro era stato troppo male perché aveva bevuto troppo. I genitori della sposa non c'era più, la sposa non c'era più, c'era solo lui e 4-5 persone. Perché avevano preparato la torta, lui si era ubriacato, era arrivato in chiesa già un pochino alticcio. Quando è uscito, ancora di più, quando hanno portato la torta, perché dovevano appunto fare il famoso taglio della torta, lui ancora prima di tagliarla ha preso la torta e l'ha buttata addosso ai suoceri, che si sono offesi a morte e se ne sono andati. Dopo un po' la sposa anche. Quando sono arrivata io ormai la festa era finita. Lui era scatenato. Così a un certo punto, molto simpatico, c'era un vaso di fiori vicino, io ero vicino al nostro tavolo, lui ha preso i fiori, me li ha dati in mano, poi ha preso il vaso e ha bevuto l'acqua del vaso. Io se me ne dai un po', lui mi ha detto, ma neanche morto, e si è bevuto tutta l'acqua del vaso. Dopo un'altra oretta siamo rimasti da soli io e lui. Quindi ho passato a chiacchierare con lui in questo locale tutta la notte. Quindi lui ha passato la prima notte di nozze con me. A chiacchierare, chiacchierare, chiacchierare. È stato bellissimo e poi strano. Qui Capitaneria di Porto. Come richiesto, l'antropologa e giornalista Geneviève Macaping è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Oh, questa è Jenny. Jenny, la mia amica del Camerun, che ha insegnato per 15 anni alla Università della Calabria antropologia e che ha una storia molto avventurosa. L'altra volta Jenny ci ha raccontato di quando a 19 anni nel Camerun incontri questo francese, Marcel, questo francese con gli occhi azzurri, al quale tu chiedi ma tu vedi il mondo tutto azzurro, e forse è lì che lui si innamora. E poi la vostra fuga, perché il capo della famiglia e della tribù accetta questo matrimonio, ma tutti gli altri si mettono contro, così perché non vogliono un bianco per casa e gli altri pretendenti molto più consoni alla tua condizione. In assoluto par condicio, perché poi arriviamo in Francia, la sua famiglia non mi vuole. Poi un giorno così maledetto, la notte dalla 1 al 2 novembre del 1978, Marcel muore in questo rogo con una mozzicone di sigarette. E Marcel aveva bevuto, io ero astemia, sono rimasta a dormire a casa degli amici. Da quel momento la Francia... Da quel momento ti trovi sola a 19 anni sola, in Francia, completamente sola. Sola, senza nessun documento, perché è morto 3 settimane prima che ci sposassimo, quindi ero una sans-papier, una clandestina, senza documento, senza niente. La Francia mi accoglie, però per la Francia devo lasciare il paese o comunque fare dei documenti per rimanere. Io non voglio rimanere in Francia, le istituzioni francesi veramente, assistenza sociale, polizia, tutti quanti mi aiutano, mi stanno vicini, mi mettono persino un assistente spirituale, pensate un po', per il tipo di danno che avevo subito, un danno dilaniata, ero dilaniata dal dolore. La Francia, prima di avermi garantito un futuro, mi aveva tolto presente, allora decido di venire in Italia, in Calabria. Come hai fatto senza documenti? Ma poi attraverso il consolato del Camerun mi hanno fatto il passaporto, ho trovato un parente in Francia che è venuto a testimoniare, a dire che sì, ero proprio io, insieme ad altri documenti mi hanno riconosciuto una identità. E così col passaporto arrivo in Italia, avendo libri porta a porta, e che si fa a Milano, si incontra un calabrese ed è solo così che allora si poteva arrivare in Calabria. Finisce l'amore col calabrese, però penso che il mio riscatto possa passare solo attraverso l'istruzione, perché avevo brama di studiare, volevo diventare una grande economista, parallelamente una grande star, che ne so, della canzone, non so fino a che punto le due cose combacino. Comunque fatto sta che, finito quell'amore, mi metto a studiare, anzi è quando decido di studiare che finisce l'amore con questo calabrese, perché lui mi dice: studia, studia che diventi poeta, vai a fare la serva. E dico: no, non ho capito questo. Dice: studia, studia che diventi poeta. Per quanto io potessi anche studiare, io posso solo fare la serva. Ah, ecco. Ma tu perdi di vista, cara signora del Finistère, che stiamo parlando di una negra. Non so se mi spiego. La cosa. Ecco perché poteva andare a fare la serva. E com'è stata la tua vita? Io in questo libro che tu hai scritto per Rubettino, Traiettorie di sguardi... Dura, lotta. Grandissima lotta, diffidenze, gente che ti toccano, professore che ti mettono le mani addosso perché sanno che tu sei sola, non sei raccomandata, non hai l'uomo di riferimento di turno, professore che ti fanno passare una slinguata in mezzo alla schiena perché tu sei nel loro ufficio a chiedere di leggerti un capitolo della tua tesi perché loro sono il tuo relatore o perché ti devono aiutare in qualche maniera. Professori che col ditino, come il girino che gira, cercano di puntare al capezzolo del tuo seno e ti ribelli, ti arrabbi e cominci a minacciare. Io arrivai a minacciare che mi sarei andata davanti alla prefettura di Cosenza e mi sarei spogliata nuda per protesta, tanto ero una selvaggia, avrei potuto farla, quindi comunque non c'è stato bisogno, hanno capito quanto di folle ci fosse in me, infatti alcuni, anche la negra è tutta pazza, chi è una matta, chi è pazza, ha detto in calabrese, e io ho continuato con la mia pazzia che è stata quella di lottare, e così sono diventata giornalista pubblicista, mi sto preparando a diventare professionista. Sono diventata professore a contratto, ma meglio di niente, all'Università della Calabria, che legittimava anche la mia osservazione sul primo mondo e sugli italiani in particolare, sul razzismo che c'era in Italia e tuttora c'è, che non è più il razzismo di 20-30 anni fa, oggi è un razzismo molto raffinato, molto edulcorato, detto con delle parole ricercate, per cui no, ma non per te, sai, quelle cose dette, no, magari porgendoti un fiore, ecco, veramente quell'assassinio biecco, ecco. Senti Jenny, ma in questo momento stai scrivendo? Sì, sto scrivendo un libro, Negra ma non sporca, che dovrebbe uscire, spero, entro l'anno. Ma contemporaneamente sto lavorando un altro libro che proprio mi piace, che mi sta facendo impazzire, che si chiama, ancora il titolo, devo definirlo bene, comunque Le donne negre che ho amato, oppure Le mie donne negre. E qua, tra queste donne c'è Barbara Alberti, Laura Grazie. Balbo, Renate Siebert e molte altre donne, insomma, io ci vorrei pure mettere la Valeria Marini, ma guarda un po', insomma, queste donne, no, che io amo così tanto e mi dispiace non poter, cioè, goderle anche sessualmente, nel senso, non solo nel senso lesbico della cosa, ecco, il più grande atto d'amore che io potrei fare a queste donne è ingoiarmele, magnarmele, magno queste donne, cioè proprio me le ingoio, no, come... Sai, in Africa le madri per nutrire i loro bambini masticano loro e lo mettono direttamente nella bocca del loro bambino. Ecco, questo cibo masticato siete voi, queste mie donne negre dalla pelle bianca che tanto amo. E, insomma, queste donne, come mangiarle, ingoiarle, perché sa, signora del Finistère, il cannibalismo è il più grande atto d'amore. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti. A cura di Gloria Guerrera.